Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono un elettore di centrosinistra e trovo disgustoso il fatto che un volgare assassino come Battisti, che non si è neppure pentito, possa spassarsela tranquillamente e impunemente sulle spiagge del Brasile, mentre i parenti delle sue vittime sono ancora distrutti dal dolore e dalla rabbia per una giustizia che non c'è mai stata. Mi sarei aspettato un impegno maggiore da parte di tutte le forze politiche a riguardo, mentre devo registrare solo poche voci coraggiose che si sono impegnate davvero in un caso che riguarda, io credo, la dignità del nostro paese. Carlo, Roma. Per la partita di calcio Italia-Brasile, visto che si tratta di un amichevole, io proporrei di mettere in palio le sorti di Battisti, e cioè il vincitore della gara si prende Battisti. Che ne dite? Pasquale. A proposito di Eluana, l'uso del decreto legge, che di per sé è uno strumento previsto dal nostro sistema per attuare politiche rapide e di emergenza, mi pare venga oggi forzato verso una politica ad personam molto pericolosa. Indipendentemente da ciò che ciascuno di noi possa pensare, il caso Englaro ha avuto il suo lungo, lunghissimo iter legale ed è arrivato a una conclusione, anch'essa legale. Rispondere alla legge con una nuova legge, dietro la pressione mediatica invadente e mostruosa di chi con la legge attuale non è d'accordo, è, secondo me, un azzardo democratico. Molti decreti legge sono già serviti in passato per risolvere grane personali dei politici di turno. E oggi un DDL vuole liberare un esecutivo dal peso di un passo inviso dalla pesante e a volte invadente lobby cattolica. E questo, credo, dovrebbe preoccuparci tutti. Ci sono temi, e quello del rispetto della vita è tra questi, che sono troppo importanti per essere lasciati in mano a strategie politiche di breve respiro. Massimiliano. La sentenza della Corte di Cassazione, che autorizza l'interruzione dell'alimentazione ad Eluana, si pone al di fuori della Costituzione italiana, promuovendo la pena di morte per una persona incolpevole e indifesa. Di pena di morte si tratta, mascherata con un protocollo ipocrita che significa morte procurata per sete e affamamento. L'umana iniezione letale non è considerata dai farisei nostrani, che non scagliano la freccia ma succhiano il sangue della vita tagliando gli alimenti. Ma quanto sono buoni e chi se ne frega se la vittima soffre le pene del conte Ugolino? Questo è l'istituto che ci tutela e tutela i valori della nostra Costituzione, alla faccia. Io, che anarchico non sono, lo divento. A tutto c'è un limite. Qui si blatera coscienziosamente sul fatto che nessuno debba toccare Caino, ma si ammazza Abele. E nessuno fiati, per favore. Non ho alcuna comprensione per il padre Peppino. A tutti fa pena. A me no. Lui chiede rispettoso silenzio sul caso, ma si è presentato senza rispetto ovunque gli fosse data udienza per motivare agli altri, e forse a se stesso, le giuste ragioni che lo hanno portato alla volontà di terminare la propria figlia. Questo signore mi deve spiegare con quale amore si è presentato al sorrisino permanente di Fabio Fazio, tra gli applausi della clac presente. Certamente ha illustrato le ragioni del suo punto di vista, ma non quelle di una donna che per propria natura sta lottando per la vita. Certo, si tratta di una donna, non di una figlia, perché lui di essere padre non ha il merito. Un uomo, un padre, ama, non si rassegna neanche dopo 17 anni. Eluana è una donna di 40 anni. E lui quali diritti accampa su una figlia che non ha più l'età per appartenergli? Faccia un passo indietro se non se la sente di accettare il dolore per ogni giorno di coma. Lasci Eluana alle cure e alla pietà delle suore che le sono state accanto per tanti anni, sino a che il nostro Signore lo desideri. Che cosa lo disturba? Perché non lascia in pace sua figlia? Perché non l'ama almeno quel poco o quel tanto da non confidare nel progresso della medicina che un domani possa restituirgli il sorriso di Eluana? C'è un altro mistero che nessuno ha sfiorato. Eluana ha una mamma? Se sì, a cosa pensa? Una madre, la mamma di Eluana, cosa sente in questi giorni? Fa male giudicare, ma forse ciò rappresenta una ricerca a ciò che succede nel mondo di oggi. Forse ci aiuta a capire il male e il dolore che pervade le nostre menti tecnologiche, lontane dal Cristo. Succede che un padre egoista e devastato dal dolore cerchi la strada semplice dell'eutanasia, mascherata nei protocolli, mentre una classe politica, una classe di pensiero laicista, affamata di rivincita sul sacro, vola verso l'abisso della propria arroganza, verso il nulla eterno, verso lo stridore di denti. Poveri noi. Roberto. Nel Nel film Il Marchese del Grillo, al condannato alla ghigliottina all'ultimo momento, per bolla papale, il pontefice, nella sua infinita bontà e saggezza, sospende l'esecuzione e commuta la pena. L'Albertone Nazionale commenta: «Scherzi da prete. Il nostro governo rimbalza ancora, dopo secoli, tra ipocrisia e sensi di colpa, mistia miopia e indifferenza. Pietoso, che la triste vicenda possa servire per il futuro, almeno una volta, a scrivere regole chiare da Stato di diritto, e non che si permetta ai giudici di turno di giocare con la vita altrui in base alle più o meno abili utilizzazioni mediatiche da parte di altre parti in gioco». Michelangelo di Fornacette. Avrei un quesito riguardo ai notiziari. Perché, quando il Papa si esprime contro guerra, carestie, consumismo sfrenato, capitalismo selvaggio, sfruttamento dei deboli e delle donne, si dice «il Papa ha detto, il Papa ha parlato di», mentre appena si esprime su questioni che riguardano vita ed etica, le espressioni usate sono «il Papa tuona», «la Chiesa all'assalto di». A me la voce sembra sempre la stessa. Benedetto XVI non si arrabbia mai. Gridava molto di più Giovanni Paolo II. Gianni, Torino. A mio parere, non esiste una grande preparazione tecnica da parte degli onorevoli parlamentari. Dal decreto sull'immigrazione, che prevede denuncia del medico verso il paziente clandestino, al possibile decreto anti-eutanasia, è chiaro che le leggi si fanno spesso sulla scia emotiva degli avvenimenti e, chiaramente, in base a preconcetti politici, non sempre giustificabili, a mio parere. O ancora, leggi fatte che poi risultano incostituzionali, un esempio su altri, lodo Maccanico, sono all'ordine del giorno. La domanda è: dov'è la professionalità dei parlamentari? Dov'è la preparazione tecnica? Li possiamo mandare a ripetizioni di giurisprudenza? Vincenzo. Tutti si lamentano perché in Italia girano liberamente persone clandestine, ossia persone che non hanno il permesso di essere in Italia. Tutti i cittadini italiani sono obbligati a denunciare eventuali illegalità delle quali sono venuti a conoscenza. Non vedo perché il medico debba avere una dispensa. Nessuno vieta al medico di curare un mafioso e nemmeno di evitare di denunciare il mafioso, ma ovviamente nel secondo caso commette un illecito. La stessa cosa vale per il clandestino. Non voglio paragonare il clandestino a un criminale assassino, ma un clandestino è una persona presente nel nostro paese senza permesso di soggiorno. Come fa a vivere? Ruba o lavora in nero? Senza contare i lavori illeciti che alcuni sono costretti a fare. Mi chiedo sempre come facciano alcuni politici a difendere la libertà di chi infrange la legge perché clandestino e a condannare magari il piccolo imprenditore perché evade le tasse. Non giustifico l'evasore, ma bisogna anche pensare che spesso superano il 50% degli utili e a queste vanno aggiunte le varie minimum tax che obbligano a pagare anche nei momenti di difficoltà. Stefano. Penso che oggi si stia ripresentando la stessa situazione occorsa nel V secolo d.C., nell'impero romano d'Occidente. In quell'occasione, la diminuita posizione di forza dell'impero stravolse le condizioni con cui i popoli migratori barbari erano accolti. Fino ad allora, i gruppi etnici venivano allontanati dai luoghi di ingresso e frammentati tra le varie province per favorirne la romanizzazione, intesa come acquisizione della forma mentis dell'unica civiltà organizzata esistente. In seguito si dovette permettere l'insediamento in gruppi stabili, isolati e aggressivi, ognuno dei quali manteneva tutte le proprie leggi e i propri costumi, con le conseguenze che ben sappiamo: fine dell'impero e secoli di arretramento culturale, civile e sanitario. Oggi, convinti che la nostra civiltà debba essere a tutti i costi rispettosa, talvolta anche autolesionisticamente, dei diritti di tutti coloro che accoglie, ne permette l'insediamento in maniera pressoché uguale. E allora sorgono interi quartieri nelle nostre città che non sono più italiani nella sostanza. Chiunque abbia qualcosa da ridire è costretto a tacere, timoroso di venire tacciato di razzismo. Consci di questa situazione a loro favorevole, in molti casi gli immigrati si fanno forza di questa legislazione a loro favorevole. Ricordo che un mio docente delle scuole superiori diceva: «Chi non studia la storia è costretto a riviverla». Giambattista. Scrivo per esprimerle la mia opinione sulla moviola. Per me è molto utile. Non è uno strumento esatto, non è la parola di Dio, ma può aiutare un arbitro a prendere decisioni. Sarebbero sempre decisioni personali e spesso suscettibili di discussioni, con buona pace dei salotti serali che di questo si nutrono. ma sarebbero decisioni prese con uno strumento tecnologico di valutazione in più. È vero che la moviola non è la realtà, ma è un aiuto che permette di vedere ciò che la velocità, l'angolazione, il fiatone della realtà non hanno permesso di cogliere. Sono convinto che il risultato se lo debbano giocare i contendenti e che l'arbitro dovrebbe incidere il meno possibile. Se per cercare di tendere alla perfezione dovesse usare la tecnologia, non ci vedo niente di male. Il verdetto del campo deve essere il più possibile non condizionato dall'arbitro. David. Sono contrario alla moviola sui campi, perché sarebbe meglio lasciare la libertà a un arbitro di decidere al momento. Con la moviola in campo, l'arbitro diventerebbe giudice, perché dovrebbe esprimere un giudizio in base a delle immagini rallentate. Dunque, valuterebbe lui, al momento, ciò che una schiera di opinionisti fanno a fine giornata. Carlo. In Cina hanno condannato a morte i contadini produttori del latte addizionato con sostanze nocive. Come mai i deficienti di turno non sono andati in Cina a protestare? Come mai si protesta per una o due condanne a morte sulla sedia elettrica e si tace per i 4.000 fucilati in piazza che ogni anno ci sono in Cina, dove si manda ai parenti il conto per pagare le pallottole che hanno ucciso i familiari condannati a morte? Ci sono i bambini in prima fila che fanno le foto ricordo delle esecuzioni. E non dite che queste cose non si sanno. Edoardo. Di fronte alla crisi finanziaria, è certamente ingiustificato imputare al sistema di mercato le colpe, che vanno ricercate invece e soprattutto nell'uso spregiudicato della finanza. Ritengo però che siano più che maturi i tempi per cancellare, senza rimpianti, l'ambigua parola di libero davanti a quella di mercato. Ai sistemi economici avanzati e complessi come quelli attuali occorrono regole economiche, giuridiche ed etiche adeguate ai tempi. È da riconoscersi che gli equilibri delle forze che determinano il corretto funzionamento del mercato, imprese, consumatori, risparmiatori e gli equilibri della concorrenza, non possono più continuare ad essere affidati ai cosiddetti automatismi della mano invisibile, perché invece nel XXI secolo la mano è visibilissima. La logica e il buonsenso ci dicono che un peso massimo non può battersi equamente con un peso piuma. Occorre rendersi conto che le moltitudini di sprovveduti sono liberi, sì, ma solo di muoversi con la clava in mano, come quando abitavano nelle caverne, per essere giocati da individui che, molto più furbi, protetti, organizzati ed aggressivi, si acquattano negli stessi paraggi, armati di mitra e con il pugnale tra i denti, per massacrarle a loro piacimento, altrettanto libero però. La vera ricchezza in grado di renderci vivibili e a volte addirittura felice l'esistenza sta oltre che nella piacevolezza e cordialità delle relazioni umane e nella confortevolezza di tutto il resto dell'ambiente che ci circonda, nel poter acquisire la giusta qualità e quantità di beni e di servizi utili. Ma per ottenere tutto questo, occorre che gli esseri umani si diano da fare anche e soprattutto con il duro lavoro materiale ed intellettuale e con la corretta educazione civica e sociale. Il denaro e tutti gli altri mezzi finanziari non sono la ricchezza. Sono stati inventati molto tempo dopo, e al solo scopo di rendere possibile e di facilitare la circolazione della ricchezza. Fernando. Caro Fernando, ha perfettamente ragione nel voler sottolineare l'esigenza di riportare il denaro al suo carattere di strumento al servizio dell'uomo e del sistema economico. Ma se mi consente, non credo che non si debba o non si possa parlare di libero mercato. Direi anzi che non si possa parlare di mercato senza che questo termine sia collegato alla parola libertà. Il mercato esiste intanto in quanto è possibile per ogni soggetto scegliere che cosa consumare, ma anche e forse soprattutto che cosa produrre. La forza del libero mercato sta soprattutto nella libertà d'impresa, nella possibilità per ciascuno di diventare imprenditore. Certo, ci vogliono regole, regole chiare che mettano tutti il più possibile sullo stesso piano e che aiutino la libertà di ciascuno. Non è una contraddizione. Noi spesso pensiamo alle leggi come a qualcosa che ci costringe, che ci obbliga. Ma le regole sono fatte anche per aiutare la convivenza sociale. Pensiamo se non esistesse la regola del tenere la destra nella circolazione stradale. Sarebbe un caos sulle strade. Ecco, vorremmo tante leggi che aiutino ad essere più liberi e magari anche a evitare i pericoli. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.